Topic of our discourse certainly this evening is impermanence. L'argomento per il discorso di questa sera è l'impermanenza. Now, a nice way of starting this satna talk is with a short satna saying by Heraclitus of Ephesus. Namely, you could not step twice into the same rivers, for other waters are ever flowing onto you. Un bel modo per iniziare questo discorso è con un detto di Eraclito. Non è possibile immergersi due volte nello stesso fiume perché l'acqua scorre in continuazione. Heraclitus was a Greek philosopher. At times, certainly, he's been referred to as the dark philosopher or the weeping philosopher. And he was born in Ephesus, which at the time was in Asia Minor, today in Turkey. And he lived from approximately 540 BC until 480 BC. Eraclito è stato un filosofo dell'antica Grecia che di nacque ad Efeso, che si trova nella corrisponde oggigiorno alla Turchia. È morto nel 480 prima di Cristo. And then the same Heraclitus also said along the same line, nothing endures but change. E anche Eraclito affermava che nulla dura, ma tutto cambia in continuazione. Now, what Heraclitus postulated that the Buddha before him, who traditionally, at least in the Theravada tradition, is held to have been born in 623 before Christ in Lumbini. So the Buddha has certainly postulated, the Buddha stated the same thing, namely he spoke of impermanence, anicca. E quindi Eraclito ha postulato la stessa cosa che è stata affermata e insegnata dal Buddha prima di lui. Infatti nella tradizione, secondo la tradizione Theravada, il Buddha nacque nel 623 a.C. a Lumbini. Now, despite of the fact that the Buddha and Heraclitus had certain perceived certain change, had seen the importance of this, most human beings have a different perception of the world. Namely, they see life as certain being rather permanent. Quindi, a dispetto di quello che hanno affermato Eraclito e il Buddha, la maggior parte degli esseri umani vedono le cose in maniera diversa e le cose appaiono invece essere permanenti. And now, the new car that one has bought yesterday, if there is an accident a few days after the purchase, then great despair arises. Se una persona ha appena acquistato un'auto nuova e dopo qualche giorno fa un incidente e la macchina si distrugge, allora sorge una grande disperazione. Now, the Pali term for being impermanent is anicca, and this consists of two parts, namely nicca, which means impermanent, and a is a negative marker, so the non-permanence of things. Il termine Pali per impermanenza è anicca, che è formato dalla parola nicca, che significa permanente o permanenza, e il prefisso a, che è un negativo, quindi non permanenza. And certain the English word impermanence, mm-hmm. then gets translated as anicca. E la parola italiana impermanenza viene tradotta come anicca. Now, the characteristic of impermanence is that things are not being permanent, they are not being everlasting, and suddenly they are originating and dissolving. Qui l'impermanenza significa che le cose non sono permanenti, non durano in eterno e che sorgono e si dissolvono. And they're also wasting away and suddenly decaying and constantly in a state of further transformation. E quindi anche si deteriorano, decadono e sono in uno stato di costante cambiamento. So, an object from an Abhidhamma point of view is referred to as having, or said to have, a beginning, to have a middle portion, and to have an ending portion, as mentioned already yesterday. You said from an Abhidhamma? Abhidhamma. Quindi dal punto di vista dell'Abhidhamma, un oggetto ha un inizio, una durata e una fine. No. The characteristic of impermanence is common to all formations comprised in the five aggregates that make up our empirical personality. The five aggregates, for those who are new, are the aggregate of materiality, rupa khanda, the aggregate of feelings, vedana khanda, the aggregate of perception, sanya khanda, and the aggregate of volitional formations, sankhara khanda, and finally, the aggregate of consciousness, vijnana khanda, in the Pali scriptural language. La caratteristica dell'impermanenza è comune a tutte le formazioni, a tutti i fenomeni che fanno parte della nostra esperienza, quindi tutti i fenomeni che appartengono ai cinque aggregati. E i cinque aggregati sono l'aggregato della materialità, rupa khanda, delle sensazioni, vedana khanda, della percezione, sanya khanda, della volizione o formazioni volizionali, sankhara khanda e la coscienza, vijnana khanda. Now, we have to distinguish between a thing that is impermanent and the characteristic of impermanence. Bisogna fare una distinzione tra una cosa che è impermanente e la caratteristica dell'impermanenza. So the thing that certainly is impermanent refers to the formations of the five aggregates, and the characteristic of impermanence is the fact that formations arise and pass away. La cosa che è impermanente fa riferimento ai cinque aggregati, mentre la caratteristica dell'impermanenza indica che quella cosa sorge e cessa. Now, the impermanence of formations can be easily observed in the world around us, in the external world. So during the springtime, plenty of flowers start blossoming, and suddenly when they've gone through their life cycle, they fall to the ground, and the flowers fall to the ground and suddenly decompose. La caratteristica dell'impermanenza può essere facilmente vista e riconosciuta nel mondo che ci circonda, nel mondo esterno. Ad esempio, in primavera i fiori fioriscono e fanno il loro percorso e alla fine si seccano, cadono a terra e si decompongono. And so, material items that suddenly we might possess, like tools or so, sooner or later they stop functioning and we have to throw them away. Così gli oggetti che possediamo, o poniamo ad esempio degli strumenti, dopo un certo tempo si rovinano, si rompono e dobbiamo gettarli. If we look at our own lives as human beings, impermanence is what characterizes our life. Namely, if you think of all the many changes that a human being has to undergo from the moment of being procreated in the uterus, and then and up to the moment of death, many changes will be there. E l'impermanenza è anche ciò che caratterizza la nostra vita in quanto esseri umani. Se ci potete ad esempio pensare a quanti cambiamenti viviamo come esseri umani dal momento in cui siamo concepiti nell'utero di nostra madre fino al momento in cui moriamo. When we grow up, we learn to walk on two legs as youngsters full of energy and strength. We run around like anything, but maybe 50, 60 years later, we have to walk on three legs. Quando siamo bambini impariamo a camminare su due gambe e siamo pieni di energie e corriamo qua e là in continuazione. Ma magari 60 anni dopo dobbiamo invece camminare con tre gambe. In the text there are passages that speak even of world systems which on occasion undergo destruction and suddenly are reformed. I testi parlano anche di mondi, di sistemi che subiscono il cambiamento, nel senso che sorgono e poi si sono distrutti e poi inizia un altro ciclo. No. The Samyutta Nikaya in its third volume, section 195, defines what is impermanent as follows. It says the five categories of, as we stated already, of the aggregates are impermanent in which sense they're impermanent in the sense of rise and fall. E nel Samyutta Nikaya troviamo questa affermazione. I cinque aggregati sono impermanenti in che senso? Nel senso che sono soggetti al sorgere e al cadere. Mm-hmm. venir meno. The Samyutta Nikaya, in its fourth volume, section 28, also states, and the emphasis is on the first word, all is impermanent. So all formations of the five aggregates are impermanent without any exception. E nei testi troviamo anche l'affermazione che tutto è impermanente, e qui l'enfasi è sulla parola tutto, quindi qualunque fenomeno dei cinque aggregati senza eccezione è impermanente. The eye with which we see is impermanent, you know, the ears with which we hear, they are impermanent, and so is the nose, the tongue, the body and the mind. L'occhio con cui vediamo è impermanente, le orecchie con cui udiamo sono impermanenti, e così per il naso, la lingua, il corpo e la mente. Now, as non-retreatants, we might, however, not see things that way. And could you mention something that is very dear to us and that certainly we consider to be permanent, and that, or that we would like to be permanent? Is there anything? Consciousness, yes, good. The speed of light. The speed of light. Yeah, that's very fast. Anything else? Quindi come non meditanti possiamo però vedere le cose in maniera diversa e quindi pensare che le cose, i fenomeni siano permanenti. Vi viene in mente qualcosa che ci è caro e che consideriamo permanente o che vorremmo che fosse permanente? E Sandra ha proposto la coscienza e poi è stata proposta la velocità della luce. And so apart from this, something that is very dear to us and that we consider permanent is the self. The very self, our being, us as person, as individual, as man, as woman, etc. Una cosa che ci è molto cara e che consideriamo permanente è il sé, quindi il nostro senso di sé, di noi stessi, come di una persona, di un individuo. Now, and at times, certain, Sandra has mentioned the consciousness as something that certainly is considered to be permanent. Even certain mental factors one might think are seen as permanent. Sandra ha menzionato la coscienza come qualcosa che viene visto come permanente, e anche certi fattori mentali possono essere visti come permanenti. So, to give you an example, one might, if one has, let's say, if one has a very sharp and keen wisdom, one might certainly then think that this is going to last forever. Ad esempio, poniamo che una persona abbia una saggezza molto molto acuta, potrebbe pensare che questa duri in eterno. No. The Majjhima Nikaya states whatever is inseparable from the idea of origination is inseparable from the idea of cessation. So in other words, whatever originates will also have to disappear. Majjhima Nikaya afferma che whatever is inseparable from the idea of origination, afferma che qualunque cosa sia inseparabile dall'idea dell'originazione e anche inseparabile dall'idea della fine, quindi qualunque cosa inizi avrà una fine. Mm-hmm. Now, the Buddha has certainly spoken of impermanence in many different ways, and those are collected in the Visuddhimagga, but also in the Patthisamhita Magga, and there's mention of the characteristics of impermanence. And formations are said, the five aggregates are said to be impermanent, they're said to be disintegrating, they're said to be fickle, perishable. Il Buddha ha parlato dell'impermanenza in molte occasioni e in molti modi, e una raccolta di questi modi in cui il Buddha ha parlato dell'impermanenza si trova ad esempio nel Visuddhimagga, e alcuni di questi sono, could you please repeat the... disintegrating, as fickle, as perishable. Quindi i fenomeni, le formazioni sono definite come appunto impermanenti, come instabili. Soggette al decadimento, alla fine. Uh-huh. Unenduring. Non durano. And suddenly subject to change. Soggette al cambiamento. To be annihilated. Soggetti ad essere annientate. To be subject to birth, subject to aging, subject to illness, subject to death. Soggette alla nascita, all'invecchiamento, alla morte. So change occurs in many different ways, and for us to see this in our own meditation practice. Quindi l'impermanenza, il cambiamento avviene in molti modi, si manifesta in molti modi diversi, e questa è una cosa che possiamo da noi esplorare e vedere nella nostra pratica di meditazione. Now, when we're ignorant of ignorant, unaware of the impermanence of formations, and things do change, then this may easily lead to the arising of stress, anxiety and suffering. Quando siamo ignoranti e inconsapevoli della natura dell'impermanenza e le cose cambiano, questo può generare in noi uno stato di stress o di disperazione. Mm-hmm. And that suffering, that stress and anxiety are totally optional. E questo stress. Would you agree or disagree? Questo stress, questa sofferenza e questa ansia sono assolutamente opzionali. No. If we're not allowing for impermanence, and impermanence does take place, so things do change, human beings do pass away, then unnecessarily we suffer. But if we do see the impermanence of formations in a very direct way, not just once but many times, then it becomes a fact that certainly we can accept and certainly be at ease with. Se non si accetta l'impermanenza, quando le cose come nella loro natura cessano, allora questo porta a sofferenza. Ma se invece si si impara a vedere, riconoscere l'impermanenza, ad esempio nella pratica della meditazione la possiamo vedere e riconoscere in molti modi, in molte occasioni, allora si inizia a comprendere, ad accettare la natura dell'impermanenza e quindi poi si può accettare quando le cose vengono meno. No matter how often we hear about impermanence, read about impermanence, think about impermanence, discuss about impermanence, this alone will not be incapable of breaking our habit of a perception of permanence of things. Non importa, non conta quante volte possiamo leggere dell'impermanenza o sentirne parlare, discuterne, solo questo non sarà sufficiente a rompere la nostra abitudine alla percezione della permanenza. Now, a number of years back, at this very center here, now there was a retreat was going on, and suddenly then for a few days, another group, a group of psychologists, came and joined us here at Biandi Chileji. So there were two events going on at the same time. Alcuni anni fa, proprio qui a Pian dei Ciliegi, era in corso un ritiro e nel corso di questo ritiro un altro gruppo di psicologi è venuto qui e quindi allo stesso momento c'erano questi due gruppi. And it so happened that the theme, the leading theme of that seminar of psychologists was impermanence. And what they did was, upon inquiring a bit, they talked about impermanence, they thought about impermanence, and there were fiery discourses about impermanence. And so I raised the question, is this really enough to fully understand impermanence? Right? Il tema per questo incontro, per questo seminario di questi psicologi era l'impermanenza. Quindi nel corso di questo incontro hanno discusso dell'impermanenza, hanno avuto delle discussioni animate sull'impermanenza, ci hanno ragionato. E io ho sollevato la domanda, è questo abbastanza per comprendere l'impermanenza? So this wrongful perception of permanence, the permanence of formations, is deeply instilled in the mind, and it takes a lot, of practice to actually see it and to gradually substitute it. Questa idea e questa percezione erronea della permanenza è profondamente radicata nella mente e quindi è necessario molto tempo, molta pratica per man mano sostituire questa idea con invece la percezione della impermanenza. In order to deeply understand the impermanence of formations on a very deep level, first of all, we have to establish ourselves in sila, in virtue. Then we have to get started in the practice, observe physical and mental formations, overcome the hindrances. Then some wholesome mental states will arise. The first insight knowledge that discerns between mind and matter will arise, and so on. Per comprendere la natura dell'impermanenza veramente a livello profondo è necessario prima stabilirsi nella morale e intraprendere la pratica meditativa superando dapprima gli ostacoli, sviluppando stati mentali salutari, arrivando alla prima conoscenza di insight e via di seguito. So to be very clear, at the very outset of our meditation practice, we may see a few changes, but this is not considered fully understanding impermanence. Quindi all'inizio della nostra pratica possiamo vedere alcuni cambiamenti, ma questo non può essere considerato una piena comprensione dell'impermanenza. And so, what it takes is certainly that we further directly understand how physical and mental formations are connected by cause and effect. È necessario che comprendere come i fenomeni sono legati da causa ed effetto. Now, in the course of our meditation practice, the mind becomes sharper and certainly sharper, and with this it will see more details. Nel corso della pratica la mente diventa, la consapevolezza diventa sempre più acuta e in questa maniera riuscirà a cogliere, a vedere sempre più dettagli. Now, during the early days of our meditation practice, we would typically see the rising movement of the abdomen as what? Nei primi giorni di pratica, generalmente, normalmente, vedremo in che modo vedremo il movimento di salire e scendere. As what? Beginning and finishing. We'll see it as one continuous movement. Lo vediamo come un unico movimento continuo. And certainly with further investigation, we'll see that what first looks like one continuous rising movement, one continuous falling movement, actually is seen as wave-like, and that later on as being segmented, consisting of different segments. E con la pratica, continuando la pratica, quello che inizialmente sembrava un unico movimento, quindi un unico movimento il salire e un unico movimento lo scendere, appare poi come in forma di onda e successivamente appare segmentato, quindi diviso in tanti segmenti. If one then takes one single segment and focuses in on that, zooms into that, one might certainly see how that segment itself then starts fall into is composed of sub-segments. E se uno si concentra, porta l'attenzione su uno di questi segmenti, vedrà che anche questo segmento è formato in realtà da altri più piccoli segmenti. No, another example would be that of a pain at the very beginning of a retreat. The pain appears to be a compact, solid, unchanging object. However, over time, upon deeply investigating, we find that pain is breaking up, it's changing, and the intensity of it might be changing, the location of it might be changing, and so on. Un altro esempio è quello del dolore. Inizialmente un dolore può sembrare come un'unica cosa compatta, ma invece con un'osservazione più accurata si vedrà che questo dolore in realtà è composto di tante sensazioni, che cambia, che si sposta e così via. No. Another example would be a bending movement of the arm. So one movement like this. At first one might certainly think it's just one single movement, but upon close investigation, a retreatant is likely to discover that it consists of many tiny little segments. Un altro esempio è quello di un movimento del braccio. Inizialmente può sembrare un unico movimento, ma ad una investigazione più accurata un meditante scoprirà che in realtà è fatto di tanti piccoli scatti. On a mental level, during the early stages of practice, when one has overcome the hindrances, then frequently calmness tends to arise. And then the mind, obviously it's a wholesome mental state, the mind holds on to it and certainly assumes possibly that this is going to be a lasting state, but the situation is such that the calmness sooner or later disintegrates. E a livello mentale invece, dopo alcuni giorni di ritiro, si superano gli ostacoli e può sorgere calma nella mente. E la calma no, è uno stato salutare, e magari si tende ad attaccarsi a questa calma e si può anche pensare che questa calma continuerà sempre, ma non è questo il caso, e la calma può cambiare e infine verrà meno. Now, I mentioned already that yesterday a retreatant at first is likely to see the middle portion of a predominant object of rising and falling, work and other objects, later on the middle and the ending portion, and then again later on all three, beginning, middle and end. Come ho già detto ieri, all'inizio della pratica si tenderà a vedere in particolare la parte centrale di un oggetto, nel corso della pratica poi si può arrivare a vedere la... Sorry, you said first the middle part? First the middle, then middle and end, and then beginning, middle and end. Mm-hmm. Poi la parte centrale, quella finale, e successivamente ancora la parte iniziale, centrale e finale. Now, there's a few mental attitudes that certainly might help with the exploration of the impermanence, namely to assume that everything that exists is marked by origination and dissolution. Ci sono alcune attitudini che possono aiutare a comprendere e riconoscere l'impermanenza. E una di queste è pensare, considerare che ogni cosa everything is subject to origination and dissolution. E pensare, quindi considerare appunto l'idea che ogni cosa è soggetta all'origine, all'originazione e alla dissoluzione. Nothing remains without changing. E nulla non è soggetto al cambiamento. And furthermore, to recognize that all phenomena are of a momentary or temporary nature. Inoltre riconoscere che tutti i fenomeni hanno una natura momentanea o temporanea. There is no permanence anywhere. Che non c'è permanenza in alcun luogo. Now, when a retreatant over that time experiences the impermanence of footnote formations in this way, in that way, in different certain ways, then this might be actually quite challenging to the notion of a self. And the notion and the self being assumed to be permanent, something lasting that we can count on, something unchanging. Quando lungo il corso della pratica un meditante continua a vedere l'impermanenza e quindi a riconoscere come ogni cosa è impermanente e vederla in tanti modi, questo può mettere in discussione l'idea di del sé come qualcosa di permanente e che dura in eterno. And certainly, so when one at times certainly realizes that certainly there's no self to speak of, at least at times, then this comes as a challenge. When at times one sees that there is no self, then this might come as a challenge. E quando una persona inizia a vedere che non c'è un sé, questo può porsi come una sfida. And so at that point, what we need is as much equanimity as possible, balance of mind, equilibrium of mind. E a quel punto è necessario, quello che serve è avere il più possibile equanimità, quindi un equilibrio della mente. And certainly a balance of mind or equanimity is certainly defined as a state or is manifest as certainly neutrality of mind. E questo stato di equilibrio mentale o di equanimità si manifesta come con una neutralità della mente. And certainly whether an experience is pleasant or unpleasant, it doesn't matter to the mind just remains balanced. Quindi che si sperimenti qualcosa di piacevole oppure dispiacevole, questo non ha importanza, la mente rimane equilibrata in ogni caso. Now, when one goes further in one's practice and one sees how new formations are quickly arising and quickly disappearing one after another, sometimes in a series, short or longer in a series, this too may be somewhat unusual, unexpected. And this at first might be perceived or experienced as somewhat challenging. E andando, proseguendo nella pratica, si arriva a vedere come si arriva a vedere un cambiamento sempre più veloce, quindi un fenomeni che cambiano uno dietro l'altro. E anche questo inizialmente può costituire una sfida. And certainly so, for this situation too, we need to have a balance of mind and simply just observe what comes along, observe those many formations that keep arising and passing away. E quindi anche in questo caso è necessario avere il più possibile un equilibrio mentale e semplicemente osservare accettando questo continuo sorgere e cessare dei fenomeni. Now the amazing thing is that as objects are becoming faster, are quickly arising, quickly passing away, the observing and knowing mind also is becoming faster, is operating more quickly, and with that the mind does manage to cope with what's happening. E così come gli oggetti sono diventati più veloci, quindi sorgono e passano con una velocità maggiore, anche la mente è diventata più veloce e quindi sta al passo con questo rapido sorgere e cessare. No. Most human beings prefer to deal with and observe the origination, the beginning of objects, the arising of objects. But when it comes to the ending, the breaking up, the disintegration of objects, most people have some resistance there. Normalmente molte persone preferiscono osservare l'inizio dei fenomeni e quando invece si tratta di vederne la fine c'è una certa resistenza. And that has to do with the fact seeing formations as ending is somewhat threatening to the sense of a self, of an ego. E questo accade perché vedere la cessazione dei fenomeni è in qualche modo una minaccia per il senso del sé, per l'ego. So the self has the tendency to attach itself to, let's say, physical formations. And assuming that those physical formations are stable, are permanent. In sé, per sua natura, ha la tendenza ad attaccarsi, poniamo, alle formazioni fisiche e di assumere che le formazioni fisiche siano permanenti. However, when one deeply explores what's actually going on, one realizes that these physical formations are mostly disappearing. Ma quando una persona osserva quello che accade, che sta effettivamente accadendo, vedrà che queste formazioni fisiche stanno continuamente cessando, svanendo. And that then causes is disconcerting to the sense of self. E questo questo è destabilizzante per il senso del sé. Mm-hmm. And so the ego will think, okay, if physical formations are not permanent, well, let's hope that at least feelings have some degree of permanency. And the attachment is to feelings. But if on occasion one sees a pleasant feeling, a neutral feeling, or an unpleasant feeling as breaking up, well, then again, this notion, this hope for some permanency, that gets shattered. Quindi a questo punto si può pensare, se le formazioni fisiche sono impermanenti, magari invece le sensazioni sono permanenti, quindi ci si attacca alle sensazioni. Quindi il senso del sé si attacca alle sensazioni, ma osservando le sensazioni si vedrà che anche queste stanno continuamente cambiando e cessando, e quindi di nuovo anche questo è un altro momento di destabilizzazione. Mm-hmm. So when both physical formations as well as certain feelings have been understood as certain being unreliable, as being subject to change, the mind, the self, tends to attach itself to perceptions. And those upon closer observation turn out also to be impermanent, which again does destabilize the sense of self. Quindi una volta che il sé ha visto che le formazioni fisiche, così come le sensazioni, sono impermanenti, tende ad attaccarsi alla percezione, ma osservando la percezione vedrà che anch'essa è impermanente, e questo è ancora una volta destabilizzante. No. The hope then is, well, if material formations are not permanent, feelings are also not impermanent, perceptions are also not impermanent, what remains is not much, so let's hope that mental formations are somewhat permanent. Allora, se le formazioni fisiche non sono permanenti, le sensazioni non sono permanenti, e le percezioni non sono permanenti, speriamo che le formazioni mentali siano finalmente permanenti. And so when one then realizes a mental state like calmness is not permanent, a mental state like concentration is also not permanent, keeps certain undergoing changes, well, with this one realizes even mental states are not reliable, they keep changing. Ma quando ci si rende conto che la calma non è permanente, che la concentrazione non è permanente, cambia di continuo, allora ci si rende conto che anche gli stati mentali non sono affidabili. And so then the final hope is let at least consciousness certainly be permanent. And so, the permanency of consciousness is something that is deeply ingrained in the mind, that belief of permanency of the consciousness. Quindi l'ultima speranza che rimane è che la coscienza sia invece permanente, e questa credenza della permanenza della coscienza è qualcosa che è profondamente radicato nella mente. Now, when carefully observing the disintegration of objects, one will at times notice that consciousness is not as assumed something permanent, one consciousness that's lasting forever, but rather we're speaking of moments of consciousness occurring one after another. Ma osservando gli oggetti che si dissolvono, che vengono meno, si realizzerà, ci si renderà conto che anche la coscienza non è un unico fenomeno permanente, ma si tratta in realtà di tanti momenti di coscienza uno dietro l'altro. So when one deeply realizes that consciousness too is not of a permanent nature but keeps undergoing changes, then this once again can be quite disconcerting. E quando ci si rende conto che anche la coscienza non è come si credeva permanente, ma che subisce, ma che è impermanente e subisce e che cambia in continuazione, anche questo è ancora una volta sconcertante. Mm-hmm. And so when a retreatant deeply sees one or the other object, could be a material object, could be a feeling or whatever, then such an object is really not stable, is really not certain and permanent. When one sees that really deeply, then a moment of big surprise certain might occur. Quando un meditante vede e vede veramente in profondità il fatto che un oggetto, che può essere un oggetto fisico, una sensazione o qualunque altro tipo di oggetto, non è permanente, quando questo è visto veramente in profondità, può essere una sorpresa. Mm-hmm. And since this is quite a new understanding, the mind does need to have some degree of equanimity. E siccome questa è una nuova comprensione, la comprensione di qualcosa di nuovo, la mente deve avere un certo grado di equanimità. Now, that equanimity, however, does develop gradually as one keeps observing the disintegration of objects over and over and over and over again. Gradually the mind becomes habituate, or gradually it gets used to this breaking up of formations. It even starts taking interest in it. Curiosity arises. One wants to find out how formations are disintegrating, and at that point good equanimity will be there. Ma l'equanimità è qualcosa che si sviluppa man mano, gradualmente, quindi man mano che si è qualcosa che si sviluppa man mano che si continua a vedere il dissolversi delle formazioni. Quindi gradualmente si costruisce, la mente si abitua a questo fenomeno del venir meno delle formazioni e arriva anche a sviluppare un interesse, una curiosità nei confronti di questo fenomeno e quindi cerca di comprenderlo. The last part. Ed è a quel punto che, l'equanimità diventa stabile. Stabile, yes. And suddenly, so then the question arises when every formations are, or when all formations are basically disintegrating, what is there left for the self to hold on? And one realizes there is nothing to identify with, for self or an ego to identify with. And so, then the mind gets used to the fact that there are just formations that are disintegrating and life goes on even without that sense of self. E quando si continua a vedere che tutte le formazioni si disintegrano, sorge la domanda, visto che cosa resta? What's happening to me? Che cosa resta? Am I dying? Per l'ego a cui attaccarsi, quindi dice adesso. Che cosa mi accade, cosa no, sto per morire. Man mano che man mano la mente si abitua anche a questo e ci si rende conto che la vita va avanti anche senza un sé. E ci si rende conto appunto che si tratta solo di fenomeni che sorgono e passano, che va avanti anche senza sé. And one realizes that certainly in the end that life goes on very well without this continuous identification with formations that are not stable in the first place. E ci si rende conto che in effetti la vita va avanti anche abbastanza bene senza questa continua identificazione con delle formazioni che non sono stabili e che cambiano in continuazione. And suddenly, so, if we are not suddenly too fixed on a sense of self, well, there's no need to defend suddenly the sense of self. There's no need to, support it, to keep it alive, and so on. E se non siamo fissati, non abbiamo questo forte attaccamento all'idea del sé, allora non c'è bisogno di difenderlo di cercare di difenderlo, di proteggerlo, di sostenerlo. It really simplifies life. È qualcosa che semplifica veramente la vita. Now, upon further investigation, one then, or let me put it like this: seeing the disintegration of formations over and over and over again is said to be the peak of the understanding of anicca, of impermanence, because one keeps seeing formations as ending. Si dice che continuare a vedere la disintegrazione delle formazioni è il picco della comprensione di anicca, perché appunto si continua a vedere il cessare delle formazioni. And there's an interesting aspect certainly here, also to consider over time we see various objects of observation as disintegrating, disintegrating, disintegrating, and sooner or later we might even find that the observing mind itself, the observing, the concentrated mind itself, is what? Also disintegrating. And so your mindfulness itself is nothing permanent. It too is undergoing changes. Sometimes it's there, sometimes it's not there. Then it's suddenly there again, and it gets stronger, it gets weaker, and so on. Inoltre, ci si osservando gli oggetti che continuano a disintegrarsi, si può arrivare a riconoscere che anche la coscienza stessa continua a disintegrarsi. Quindi anche la consapevolezza non è qualcosa di continuo e permanente. No. With further practice, our meditation will deepen, our understanding will deepen, and it might happen that while observing some predominant object, could be the rising thought, it could be any object, we see the object in the mode of anicca. We might be seeing the dissolution of it, the disintegration. It's not a must, but it could be that. And then with this, one goes through the gateway of satna liberation, the signless satna liberation, animita, vimokkha, mukha, and satna that leads to the realization of the first path of enlightenment. E proseguendo con la pratica si può arrivare al punto in cui si continua a vedere l'impermanenza, anicca, nei fenomeni, e può essere anche appunto si continua a vedere i fenomeni che cambiano, può essere anche la cessazione del fenomeno, e a quel punto può essere anicca, può essere l'impermanenza la porta per la realizzazione del Nibbana, e questo porta al primo stadio dell'illuminazione. Mm-hmm. And so with that, then obviously a very deep understanding of anicca will be there. E naturalmente con questo ci sarà una profonda comprensione di anicca. And at that point, impermanence will not be is not a matter of discussion anymore. It's something of a deep conviction. E a questo punto anicca non è qualcosa di cui discutere, ma è una profonda, una reale comprensione e convinzione. The perception of permanence, if that certain prevails without certain practice, in the long run has an impact on consciousness. It leads to a distortion of consciousness, and that in turn leads to a distortion of our views. So when we wrongly perceive things in a distorted manner, perceive formations as permanent, that has an impact on consciousness, and that in turn has an impact on the views, and we would certainly then typically hold the view of permanency. In assenza della pratica, se a lungo si continua a mantenere lì, perception, so distorted certain perception, okay, of permanence, okay, and suddenly that leads to a distortion of consciousness, okay, and the distortion of consciousness in turn leads to a distortion of views. Mm-hmm. Quindi si continua a mantenere questa idea della permanenza, questa è una distorsione della percezione. E mantenendo questa distorsione della percezione, questo porterà a una distorsione della coscienza, e questo a sua volta porterà a una distorsione della visione e quindi ad avere una erronea visione delle cose, dei fenomeni come permanenti. Mm-hmm. And so through meditation practice, so through directly seeing the breaking up of or the impermanence of formations, with this our perception gets rectified, so we see formations as we perceive formations to be impermanent. That perception then has shapes our consciousness. With that, certain consciousness will be conscious in a proper way, and that in turn will shape our views, and the view of impermanence will prevail. Con la pratica invece si arriva ad avere a vedere l'impermanenza, quindi con la percezione dell'impermanenza questa man mano avrà un impatto sulla coscienza e informerà la coscienza che a sua volta porterà a una darà forma alla visione e quindi si arriverà a una corretta visione dell'impermanenza. So it is in this way through practice that the distorted perception, consciousness and views get replaced, substituted by a proper perception, consciousness and view of things. Quindi è in questo modo che attraverso la pratica una percezione, una coscienza, una visione distorte vengono sostituite da una corretta percezione, coscienza e visione. And so to conclude today's Dhamma talk on impermanence, number one, don't be afraid of impermanence. Per concludere questo discorso sulla impermanenza, in primo luogo non abbiate paura dell'impermanenza. It can be actually quite fascinating to observe impermanence. E in realtà può essere anche piuttosto affascinante osservare l'impermanenza. And certainly may you be equipped with good equanimity and certainly deeply understand impermanence, and hopefully would it lead you to the realization of the truth of the peace of Nibbana through the door of impermanence. May it happen during this very retreat here at Piande Ciliegie. Che possiate essere forniti di una buona equanimità e che possiate avere una corretta e profonda comprensione di Aniccia e che questo possa portarvi in ultima alla realizzazione del Nibbana attraverso la porta di Aniccia e che questo possa accadere in questo stesso ritiro qui a Pian dei Ciliegi. And that's all. Okay. Do you have any questions, comments? Ci sono domande o commenti? Yes, Bruno. Is it identical with emptiness? With this no. Concept of emptiness? No, no, no, that's different. Emptiness is part of the larger term of anatta. Anatta, non-self. That's emptiness refers to empty of a self. È stato chiesto se aniccia è la stessa cosa di vuoto no, non è la stessa cosa. Vuoto fa parte della fa parte di anatta, del concetto più ampio di anatta, e quindi con vuoto si intende vuoto di un sé. The investigation of impermanence does certainly help to see the true nature of self. E comunque la percezione dell'impermanenza aiuta a vedere la vera natura del sé. Yeah, anything else? Yes, let's hear Maria Cristina. co-emergent with this distorted perception, or it comes later? Yeah. No, it's because we're ignorant of the true nature. We're ignorant of impermanence, and that's why we take things to be permanent. Yeah, è per il fatto che c'è ignoranza che si considerano le cose permanenti. Quindi questo per quanto riguarda la relazione tra ignoranza e percezione della permanenza. Ok, so now the plan for the next 2 days is as follows.